caliente, non so come fu. Lieta e sorridente, mi seguisti un giorno tu. E da quel dì, Peccucciolin, al guinzaglio salto di come bello pian piano con te passeggiar, ciua ciua ua. Tra la gente che si ferma intanto a guardar, ciua ciua ua. Quanti cucciolini son gelosi di te, ciua ciua ua ua. Sembra quasi che capiscono perché tu sei felice con me. Sì, sì, sì, sì, sembrano esclamar. Ciua, ciua, wow, wow, wow. Bonita, bonita, wow, wow, wow. Figurita, figurita, mi piacerebbe vivere come te. Come bello pian piano con te passeggiar. Ciua, ciua, ua. Tra la gente che si ferma intanto a guardar, ciua ciua ua ua, insidia fai ovunque vai, ciua ciua ua, ciua ciua, ua ua ua, ciua ciua ua.